Ford, CC, cambio. Attento, Britella. Attento, Britella. Attento, Bevella. Un secondo. tecnologia come me l'avevi messa tu. Ok, l'ho riportato all'origine. Ciao Lu. Non è Massimiliano, saluto. Papà già, bene, mi ascolti? C'è qualche innesco, radio, com'è? Buona? Perfetta, ottima, più che ottima. Bellissima la modulazione, Massimiliano. Bellissima. E a 10 lo puoi mettere come lo tenevo io, già va 40, 50, più che sufficiente. E vabbè, ho portato una quindicina, sarà 12, forse non c'è 15. Vabbè, come al solito io uso così tra, mi va più che bene per fare due chiacchiere in città, delle poichi. Poi, ma qui c'è la radio molto bella, cosa fischiare, no? La gente si è frusciata. Vabbè, c'è qualche innesco interno così e magari come appoggi, come si avvicina magari il microfono, se al 60 è un microfono riccato, non è che... Un bel microfono, ma secondo dove lo metti, fischi, anche a me me l'ha fatto, quando ho cambiato scrivania, che l'ho messo a fianco al, già avevo 140 e 430, l'ho messo in mezzo e mi fischiava, l'ho tolto, l'ho messo come lo tengo sempre io, davanti e non fischia più. No, vabbè, oh, qua si pure, c'avevo il telefono vicino, vediamo un po', guarda qua, adesso sono lontano, ok, non ho le mani appoggiate da nessuna parte, neanche sul microfono e nulla, quindi che non innesca più come prima, finalmente quando mollavo il microfono innescavo, adesso sono a 60 cm parlando. Non è sempre questione anche di radio, attenzione, perché se la radio è messa bene, nel senso che è bella allineata, è bella, non ce ne rientri di resto. Assolutamente, va bene, 5 perfetta la radio, segnale 69 più 20, cosa vuoi di più? Lucano? Lucrezia. Via! Via! Dai, quanto paghi la spedizione? Dipende che cosa vuoi spedire. Ah, vabbè, lo devo spedire un computer in Germania. Mi piace. Allora, Carlo, io quando ho spedito il 767 della Yaesu, il Claudio già lo conosce, è una radio, cosa ti posso dire, forse come il Galaxy, forse anche più grande del Galaxy, col microfono suo con la scatola, ha fatto un pacco allucinante, ha fatto il ritiro, l'ha fatto il tipo, la spedizione l'ha fatto il tipo in Olanda, io l'ho mandato in Olanda e ha pagato 39 euro. Per spedirmelo qua ha preso 17 euro la persona. Però può, perché il computer è leggero, è piccolo come pacco, capito? Questo era sia pesante che anche ingombrante. Che computer è lui? Che monitor c'ha? Da quant'è? No, PC portatile, no, è grande Massimiliano, 17 pollici. Ma, quindi, sì, 17 pollici, sì, come il mio, 17,2, per essere esatti. E il pacco è grande, è grandissimo, è grandetto, adesso vediamo un po'. Vabbè, adesso lo pagherò il proprietario. Allora, quello che mi ha detto Francesco a me, Massimiliano, che è molto importante anche il volume, capito? Quindi non lo fare molto grande il pacco, poi lascia perdere il 767, Massimiliano, è grande sì quanto il Galaxy, senza maniglie, ok? Però il peso pesa lo doppio in su, quindi lì c'è volume e peso in quella radio, mentre invece da lui il peso non ce n'è, ma se fai il pacco grande te lo contano come volume. Ma infatti, lì c'era il peso, la grandezza anche, ma per farti capire, è andato in Olanda e il tipo ha speso 39 euro perché l'ha pagata lui, io sono andato da Francesco, ha preso le misure, tutto quanto, e mi ha detto questa spedizione costa 39 euro. Ho chiamato al tipo e gli ho detto cosa vuoi fare? Sì, te lo includo nella carta la spedizione, vabbè, e io non andato. Vabbè, già mi ricordo di quella cosa lì. Mi ricordo di quella cosa lì. Va bene. No, non devi fare molto volume, Lu, perché altrimenti ti fanno pagare il volume ed è un casino. Capito? Io bene sto andando di radio, Massimiliano. Sì, benissimo. Ascolta, Lu, puoi fare un'altra cosa. Puoi telefonare e chiedere. Capito? Mi dai le misure e chiedi a vedere quanto più o meno è la spedizione. Vabbè, un PC quanto peserà? Boh, cosa facciamo un PC? 3 kg, 4 kg, boh, più o meno. La scatola è grande, perché il PC è grande. Cosa ne so? Boh, lo so, chiedo. E vabbè, dato già so paga chi lo deve, chi so lo deve prendere. Oggi un peso, però la posizione gli deve includere nel prezzo, no? Ah, vabbè, fatto un favore, dai, cosa... L'ho sistemato, gratis. Dobbiamo mandare in Germania? Sì, sì, sì, perché in Germania non ci sono tecnici. Dove questa persona, non ci sono tecnici. Ah, tu non ci devi essere in tedesco, allora? No, è una persona italiana. Ah, è meglio fare pubblicità, la Germania basta mandarli qua al computer e apriamo subito un laboratorio. Te lo apro io, mi. No, lascia perdere, cla. Poi vai in Giusa, lascia perdere. E in Giusa si ammattano, o si impiccano. Giusa poi gli rode il culo, no, ma non va a finire niente, mi interessa. O vai più in là, mi. Adesso vediamo. Secondo, boh, stavo cercando magari una persona proprio del mestiere, quella si vuole pagato ovviamente, non è che... E se riesco a ingranare bene, sì, perché no? Allora, scusa che se in Germania non viene, ti fai mandare noghi e vamo già a fare. Quanto ce n'è di gente che lavora in esportazione con tante cose? Quindi, perché no? Si può fare. Vero Massimiliano? Io Massimiliano c'ho un garage. Ti metti lì, tranquillo, non paghi niente. Tutto a posto. Sì. C'è l'ubiglio. Boh, qua nel quartiere. Siamo nel quartiere. Rubiamo quartiere. Che bel posto in quartiere, uno travaglia. Beh, qua la moto non ce n'è. Vabbè, ma quello non vuol dire lui. Uno quando è bravo, è conosciuto, uno va anche fuori città a portare la cosa, quindi. Però tu mi dirai, se in città è meglio. Vabbè, esatto, un bel tono che c'è, devo lo dico. Cazzo, sì, ma quello mi interessa, non lo dico, ma quello si va educato. Si va giù un bagaglio in tira, ma non qui basso. Ma ti rendi conto? No, ce non fa Massimiliano lì dentro, ma per carità, la porta sta crollando tutto. No, ci vuole una cosa, anche, cosa ne so, un garage anche, che ci sia una macchina, là, ma anche più grande, là, giusto per mettere i ripiani, fare tutta una cosa fatta bene, no? Una cosa seria, là. Ripeto un attimo, vado a prendere la bestia. Va bene. Cazzo. E quindi tutto a posto, non c'è problema. Dov'è quello che sto facendo? Mettendo un po' di materiale, di roba che non mi serve, che devo portare a Gianni domani mattina. Così se la spuccia lui, io intanto uso il vostro. Sta roba dentro l'armadio, sta roba vintage e non vintage, quindi la roba Gianni. Se mangia lui, almeno me ne libero un po' di questa roba, se no, la vado a tacca armati, baccare dai. Cosa stavo dicendo? È un'idea quella di Luca, eh? Aspetta, se lì non ce n'è di tecnici, si mette d'accordo, a io mandate, per dire a 3 a 3, come il riparo ve li mando, ma ne mandate a 3 a 3. E altra vez ce l'abbiamo fatto, eh. E lui, vabbè, ma non ce n'è nel paese dove c'è questa qua, ma non poi c'è il giornale che vediamo tutti con i computer, una buffoellice. Mi attenti al lupo. Beh, buonasera. Ciao, bombolo. Capo, sono appena rientrato. Buonasera Massimiliano e a tutti. Sono appena rientrato, via, va a fare io sa magna. Ma chi a magna? Ciao, bombolo. Ehi, accetto che mangio. E allora andate. Cappa. Oh, io ti ho regalato una bella paletta, una bella salsiccia di orure. Mi giuga, me la vedo questa paletta. Ma quella che mi hai mandato a me la foto? Sì, ho fatto un piacere, là, un fattore che è salito con un camioncino, voleva un po' di materiale macinato. Mi sta giù con una rimada sopra il braccio e si è impennato con il burbone, capisci? Ma è tu un giorno muto, a te la metti, vuoi morire, un giorno muto. Chi va via, chissà, per 50, la caricava di Sindria, e sciuga. Una volta l'ho visto, che la volta era avanti e non toccava per terra. Ma è gabbo e chissà, per carità. Ah, già, vabbè, cos'è per un macchato, ogni tanto, un via Pascoli. Ok, dai, ora vado a mangiare, dai, ci sentiamo dopo. Ehi, ehi, vai a mangiare, vai a mangiare, non c'è problema. Guarda, guarda. C'è io 2 metri e mezzo qui, e quando mi ha menato questa roba pesa quasi 30-40 quintali di più. Pesciuga, ma cos'era, un motocarro o un camioncino di quelli, due assi, cos'era? Un delli, di quelli vecchi con fare il tondo, cazzo, cioè, sono pinnato davanti, cioè, cazzo, l'ha scaricato un po', cazzo, lo toccava un po' di più davanti. E si sono già delle balestre? Beh, al contrario, ma lo so fatti. E te hackete, mica il cazzo, mica si può cadere che abbiamo in giro. E tanto ci ha fatto 3-4 viaggi. E poi mi ha detto, dopo ti porto una cosa buona. Andava, è tornato, mi ha regalato una beretta, mi ha gratito. Ehi, sciovane, capito? Una mano va e l'altra viene, non c'è problema. Tanto il materiale è... Sono già arrivati, hai fatto bene, bisogna trattare bene con la gente. Quando lo tratta bene, va bene sempre, ha sempre del bene. Quando lo tratta male, è che lo manda di nuovo a mare. Ma come lo ha detto, a casa come te chiedete? No, vado a giocare il gatto, ho detto, a vedere quanto gli ho fatto male. Adesso facciamo più le cassone. Non so mica pieno, pesa più di 30 quintali. E se li hackete? E se invece ci siamo mangiati di malestri, mi pare che carica 10 quintali quel camioncino lì, a pieno carico deve essere 35, compresa tutta la tara, quindi cosa, se non esce lì su che va di rodi doppia da rete gemellata, se non è gemellato mi pare carica 8 quintali. No, già è gemellato. No, ma è un pastore che abita in una torina bianca di vicino dove abbiamo la casa. Non ci deve uscire tra la mamma così, c'è questa cosa, e mi abbattente. Io sono stato a portare un beso, come è capitato a me quando ero corriere, stavo rientrando da Olbia, scarico, voglio consegnato tutto, sono state d'estate, le 5, le 6 di sera, di pomeriggio, capito? Mi dice sempre a Borgia che Maria De Filippi, compreso. E come è stato d'ora Maria De Filippi, Sant'Antonio mio. Ma che dai, ma è bambino, ma non è televisione tu vuoi, ci muoce anche la casa. E la ci sente qua. E vabbè, io. Il teleacchete. Oh, sono andato un attimo a vedere cosa sta succedendo, prima di... Mi sa che la presa e si va a Gigi Marzullo. E stanotte non te la vedi che non è fratello. Ha se eliminato un casino. E a me che andai televisione. Lo so, ma mi iso, ho capito, ma sto lì, mi guardo la grande sorella, e vai, vai. Ah, te lo grande fratello, ma come le finendi? Ok, là, un'informazione, l'FT1000. C'è la versione 100 watt e la versione 200 watt. E si conferma, io ho avuto sia la versione da 100 che la versione da 200, l'FT1000D, noto il millone, che mi ha crepato un fulmine e mi ha disintegrato. Questo è FT1000M Milano Palermo, MP030 100 watt. Quello, poi c'è... L'FT1000D che è il millone, versione da 200 watt, lo chiamano millone per quello, la versione da 200 watt, ma vecchio. E poi c'è l'altro, la versione da 100 watt. C'è anche il DX, se è per quello, e ce n'è versione. No, era per favore, perché non mi ricordo del tuo, la 200 watt, mi sembra l'ultima, no? Sì, avevo la versione da 200 watt io, quello che ho venduto, sì. Cappagata, è bella radio però quella, eh? Lo so, ma erano le tratti e non fai più attività, è inutile tenerla. Per ricevere, perché io solo per ricevere lo uso, 430 è più che sufficiente, o qualsiasi tipo di HF, insomma, non... Già lo sai, Massimilia, è inutile tornare sullo stesso discorso. Ehi, no, ho detto che bella, che uno... cioè esteticamente una bella radio. Radio di ultima generazione, insomma, molto, molto bene. Va bene, Massimi, dai, che Filippo ci ha tratto due volte quasi, ma però vai a portarmi a Bisciao, ma io il Bisciao sotto. Se ci sei, ci sentiamo dopo. Capito? Non sento una cattina stasera. Vabbè, dai, c'è Antonio, intanto mangia un imbuto, Antonio, e attende subito. Sì, vabbè, anche io voglio che mi fate una moto, non ho nessuno lasciando giù, me ne sto con loro, capito? Va bene, a dopo allora, ciao ciao. Ehi, Massimi, dai, porto a Filippo, poi gli risolvo subito, ciao, a dopo. Ebbè Massimiliano, attento Massimiliano. Ehi Antu, innamora ragazzi, e soprattutto due secondi a mangiare. Ma cosa ti pensi che io mangio la sera? E fatto. Non è che mangio chissà cosa, ne mangiato appena l'insalata. Una betta di uovo, di ricotta, boh, finito. Non ho mangiato altro. Una betta di ricotta, ma voi mi avete mangiato allora? Ma che forno, un pezzo! Ah, tu capisci, ah, ci ho preso una betta di ricotta. Una betta è un chilo, me. No, un pezzo reddo, un pezzo di ricotta. E siccome te non mi piace poco, ya, chissà di oggelo. Oh, ya, conosci un luogo onde la vendere buona, a me. Davvero? Ehi, ya. No, già piace anche a me, l'altro giorno l'ha presa Daniela, ma buona davvero. Molto buona, buona, buona, anche a me piace fresca con Jimmy. Oh, ya. Yeah. Ti credi che sto con chimino? Dammi mezza, una forma quando c'ho i soldi. Non ti credi che l'abbiglio poco poco, no, io con pareggio. Tanto mezza cosa vuol che sia. Quattro forchettate non viene più. Beh, mezza forma, se è cosa già mi dura un po', perché io ne mangio un pezzettino e basta. Ecco qua, cazza cazza. E io adesso invece scendo, mi faccio un po' di fettine in palazzo. Così me ne porto anche domani a pranzo. E la buco già vuoto. Nuda, andavo oggi fettine impanate e insalata. Allora, oggi ho mangiato appena l'insalata, un po' di patata bollito, così mischiato. Mezza insalata, appena da zitto, un mezzo che mi piace. E poi basta, la mia amica da burra ziota, che a me mi piace. Ma così mangio, non è che... Non ti credi che ho mangiato. Quando sono in compagnia, qualche cosa di più, ma non la pasta qua. Cioè se mi ammala, se me ne avanza la mangiamo anche a pranzo, non la buttiamo via, perché non è che io mangi tanto. Beh, per forza, allora ce l'avanti. È un trampo, no, che è travagliata la cosa, che, no, la mangiamo poco, poi niente che ci vado lo primo, lo secondo, ci abbuffano, noi mangiamo quel tanto e basta. E anche io sono così, anche noi mangiamo, a volte mangiamo un primo, oppure mangiamo direttamente una fettina con insalata, una mozzarella, una cosa così, la notte mangio molto più leggero comunque. Io di notte per dire non ho cenato, niente, 2 più 0 completamente, non avevo fame e non ho cenato. Capa, no, così capita così qua, non è che... adesso che burro mangiami, non è che... però no, non lo faccio perché se no mi appesantisce e non sto bene, non lo faccio per quello. Guarda, anche io poco fa sono rientrato e ho mangiato mezza peretta e un po' di esercizio. Mamma mia, non mi va a pensare di chi si gode. Cioè, ma di oggi ho fatto una cazzata di mangiarmi una dotta in tre quasi, che da una mangiato di meno di me. Mi ha mangiato quasi una tutta in tre, da voi mi ha intasato ricarico. Cazzo, mi ha casino. Per forza, piago di vava, no? Piago di vava, oh, come sono fatto male. Non puoi crederci qua. Sì, vabbè, non è che ne devi abusare, non so di queste cose. A me il formaggio piace, la verità. È una beretta di bene tutti, era. Ma così buona questa cosa. Oh, ma da voi, oggi ho cominciato a mangiare, ma ho bevuto un'ampulla di birra in trea. Ma da voi? No, io no, sono un po' che non sto bevendo. Finito, basta. Mi sto un po' rilassando, va. Se no, altro la banca da Greci Giù. Già lo so, no, pure io mi sono dato una regolata. Mi sono dato una regolata che, no, che... ne ha di, ero sempre... sempre alleluia ero. Poi ha detto, boh, basta, poi non prendo la mano. Ma poi la birra gonfia anche, capito? Io sono birra, no? Sì, mia cottura. Mi bevevo una bottiglia di vino intera. No, anche così è troppo. Vermentino? No, rovino. Il vermentino. Vermentino, e che vuoi chi su un cagnolare di giorso? Quello è forte, quello tocca le gambe. Quindi tu sei un buon mulino vermentino, così? Caffa. No, ma adesso non sto più bevendo. Dio, mi sono dato una regolata perché cazzo la prima volta c'è mia di imbriaco. Hai ragione. Ma tu fai una prova, metti la pronta al latte con la radio, va bene? Aspetta che sto controllando la gli andava tu vado a la 30 di passi il Natale 30 dopo di questo non parlo più, Tino. Allora, buonasera. Buonasera Tino. In oggi vero lo Dezzi e lo Guinizzi. La 30 come te? No, lo Guinizzi, cioè il 10 e poi ci sono le aficine, no? I trattini. Vai sul 30, no? Io sono posizionato sul 10, sposto? Ah sì, aspetta. Ma vai Davide, com'è te sta cosa? E a quanto sei salito? A 30. 9-10 sì. Ma te tiro aumentato? No, non ho visto incremento. Forse qualche picco di positivo, ma non ho visto il segnale che è aumentato. Fate che l'abbasso. Ma vai Davide. Va bene così, va bene. Si vede, ottimo. Sì, abbasso. Sì, l'ho visto. 9, quasi 15, dai. Non va bene, no. Lasciamola stare così. Cappa già. Vabbè, sì, ho chiesto per quella cosa là, lascia più lì. Non lo stanno più facendo e stanno prendendo rumori verbali. Lo so. Ma c'è un amico che fa solo quello perché vive da quello. Però mi è intasato, troppe richieste. Vabbè, aspettiamo. Io ho chiesto proprio a lui che ha fatto la licenza. Niente da fare, neanche con la licenza non ce ne possono fare. Lo so che è intasato, ma la ciappa non è intasata. Non è continuata, capito? Quindi non hai niente da perdere, sì, bisogna un cartuccio, quindi. Vabbè. Cosa ci vuoi fare? Se uno lo fa per vivere, per forza devi far uscire, vabbè. Avanti, bombolos. Cappa. Comunque aveva aumentato poco fa, vero? No, ma io la metto così perché sennò è troppo. Fumoso. Ho paura che no, che esce un fumo, succedia che cosa. Ma allora la sollevamo, lo stanno preso, tu? Mi sa proprio di sì. Quando? Lo decidete voi, io sono occupato queste domeniche. Devo prendermi una domenica, me devo prendere. Oh, Massimiliano. Dimmi. Guardami questo segnale, se preciso a quell'altro, al grande, per favore. Quasi, non si sul 30, ma quasi. Guarda se cambia un attimino, aspetta, Se cambia così e se cambia la modulazione, sì. No, non ho visto nessun incremento. Allora va bene, questo è il B550. Buono. Funziona bene. Va bene. Quello si è alimentato bene, da 300 watt pieni. Ma cassa è alimentato con 50 ampere. E con quanto ingresso di radio? Aspetta, allora neanche 5 watt. No, fa un po' di più, vai su 7, 8. Aspetta. Così sono. Vabbè, però che modulazione se ne va a 9, Aspetta, Paola. 7 watt modulati, guarda un po' se è cambiato. Cosa vuol dire 7 watt modulati? Perché fissi sono 2. Modulati 7. No, proprio capito, scusati. Adesso l'importante bianca quanti sono, lascia perdere il picco. E quello è 2 watt, guarda, eh. Adesso sono 4 watt, ora 1, 2, 3. 7 watt di portante fissa. Con 7 watt di portante fissa ci mangi tanto romano, lo sai. Vabbè, ma la radio va in perdita? No, la radio è buona, da parte mia qui io ti ascolto bene. Tu come l'ascolti o tanto? Una bomba e non che. Cioè, è 9.20 e radio 5. Guarda, aspetta un attimino. Aspetta un attimino. 9 watt, 9 watt, ora 1, 2, 3, prova, non so quanti watt ti ha dato. No, lì c'è al limite però, se su già è già sensato. Allora, devo mettere così, dai, 7 watt di portante fissa, va bene? Sì, no, così ti ascolto bene. In sesta marcia? No, no, in quarta. Ma lui sono in quinta? Ma in quinta mi ha detto che non ho. Ecco qua, quinta marcia, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sesta marcia, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, sesta marcia va in negativo. E così invece sempre in saturazione, no? Sì, si è ancora, si è scalato una marcia e si è ancora negativo. Così era come la prima. Vedi un po'. E così sei col picco fermo sul 9.27. Allora guarda, abbasso leggermente il watt della radio. Ora. Allora fai un altro, scusa Anto, un attimino solo. Mettilo a 3 watt la radio e poi vai in sesta marcia. Allora, 3 watt, 3 watt, questa è la quinta marcia, 1, 2, 3, prova di modulazione, questa è la sesta marcia, 1, 2, 3, prova. No, in sesta marcia non va bene se ne voglio la radio, e in quinta sei appena appena negativo lo stesso. Allora, diciamo che questo è un buon compromesso, Sì, così, puoi lasciarlo anche così, ti va bene la voglia. Da te cosa ha cambiato, Antu? Provati, no, va bene da me, come va bene. Appena appena si sentiva, ma non era neanche così eccessiva, dai. Tanto io e noi siamo più vicini, magari forse per quello, capito? Tu infatti sei più lontano. Linea d'aria è vicino, dai, da te. Ma questo è il Lincoln, è Massimiliano, non è l'altro, non è l'HR5, questo è quello vecchiotto. Vabbè, ma c'è nuovo, con il più 4 ce l'hai, giusto? No, con il 5. Il più 4, ti dico la verità, che non mi ricordo che connessione avevo fatto, e sono libero adesso. Ma provalo lì, se va bene. No, no, non va bene, non va bene neanche alla casa, forse l'avevo fatto al Seat, ma poi l'ho cambiato, poi ho fatto la regola, non la giocare, anche l'ha preso a... Non faccio, gli lascio fissi, dai. Beh signori, io vi lascio che devo scendere giù a iniziare a dare un aiutino a Mugello, no? Ok? Se in caso ci sentiamo dopo. Ciao Tino e ciao Antonio. Sono stato via Claudio, non rientra, c'era anche Luca, non so. so se c'è ancora, e tutti i vari ascoltoni, no? Vai, ti riprendi, ascolto il finalino, poi mi stacco. No, no, io sono qui ancora X, sto facendo cosa al computer. Va bene, ma si vediamo più tardi. Riprendi tu, dai, ciao. Ecco, saluto di Massimiliano, ci sentiamo alle prossime. K, bella radio ti. Cos'è, Antu? Bella radio. Vabbè. Ricchia, voilà, però già. Già va bene. Anche questa è una schioppettata. Ci mancherebbe altro. Dopo tutti i soldi che ho speso, No. Non lo dico a me. Lo so, però purtroppo se vuoi difenderti ci sono gli avventuri sempre, capisci? Ciao Antonio, mi ho sentito così che sono venuto qua un attimo, sono a chiedere, non devo dire, e niente, pensavo che sono stato sabbia, che mi sono andato a chiedere. Buonasera. Ah, sì, stai uscendo a tratti, però a tratti finale. Sto uscendo a tratti, come mai? Sì, quando, mentre parlavi, la parte finale facevi qualche frappetto, Probabile. Probabilmente non ho schiacciato bene il microfono. Ho detto! Chi Franco è che non ho capito? Sosso, dai. Oh, buonasera Franco, la Sosso, mi c'è anche Claudio Cemme. Ho sentito Sosso. Ciao Claudio, buongiorno, buonasera. L'importante è che hai sentito sotto, Fra. Beh, è tempo i buonissimi, Bello bene. Ciao Franco lì. Cosa che sei entrato, non si capiva niente neanche di quello che stavi dicendo. Ho detto attento, no, sono rientrato adesso alla porta del camera. Buonasera a tutti, perché non mi capisci, troppo forte, sono basso. Una potenza, Scusate, dai, che mi stanno chiamando da poco. Ci sentiamo, ciao Claudio, ciao Tino e ciao Antonio, buon proseguo di serata. Ciao Fra, ciao, un abbraccio, salutone. Vai Claudio. Ciao Fra, piacere averti risentito, un abbraccio anche a te, buona cena e buon tutto, vai Anto. Capo, salutone Franco Lassorso, ce la risentiamo alle prossimine. Grazie di essere entrato. Quindi ti, una potenza questo microfono, o la radio, Bella e forte, va bene. Ehi, ho sentito stamattina un tecnico, mi ha detto che l'aveva mollata perché gli è entrata una radio veloce da fare a un amico della sua città. Praticamente ti chiedo scusa, però ho dovuto mollare un paio di giorni che ha avuto un problema alla radio di questo amico e siccome la usa sul camion, ho detto no, hai fatto bene, non ti preoccupare. La prossima settimana ti spedisco 430, vabbè. Chiama Giunica, io già mi divento Mattesi, non ha problemi, 430, 480 e 490. Va bene. No, sto provando l'altra radio con il B550. E Massimiliano ha detto, sì, quasi quanto quello grande. Cazzo, questo grande te ne sarà a rompere le palle, No, adesso vabbè, stavo per prendere cacciavite e fargli la fotografia ai condensatori. Io te l'ho detto, ti comanda quel settore lì che ti ho fatto, appunto, hai già visto, sono quei condensatori. Basta uno in perdita e il discorso è quello. Se riesci a metterti tutte e quattro nuove, così tagli a testa al toro, magari consulta con la persona là. Lui è tecnicamente più preparato di me, però io li avevo cambiati ad uno a valo ed era cambiato dal giorno alla notte. Gli avevo messo tutti e quattro condensatori nuovi, bello allineato, valvole nuove, era qua, spettacolare, mentre prima faceva lo stesso difetto. Andava, partiva e poi iniziava a calare la potenza, capito? Sì, vabbè, no. Diciamo che io guardati non sembra solitamente si gonfia, si perde un po' di liquido, invece questo qua sono nuovi di pacca. Lo so, che il commissatore fa così, o si scoppia, o si apre, o inizia insomma a andare, però bisogna vedere se i valori sono giusti, se sono in perdita. Comunque, te l'ho detto, costano una fesseria, te li prendi, 4, mi raccomando che siano uguali o corrispondenti, te li saldi a 1-1, tanto c'è la posizione cui devi metterli, sono le frecce, non c'è da sbagliare, e te li cambiano a 1 e poi vedi. Se non cambia il discorso vuol dire che i condensatori non avevano niente, però ci hai buttato 5 euro. Sì, è vero. Golf Lima Papa ha chiamato nel controllo. Avanti per torre di controllo, pista numero 1, atterraggio via Milano 34. Ciao Claudio, buonasera. Non proprio, ma già siamo lì. Cosa tu? Che non so onde è. Dove abito io? Se non sei tu. Ciao già. Ciao Antonio, ciao Tino, ben ascoltati. Ciao già. Scusati, riprendi dai. Sai che stiamo ascoltando, niente di particolare. Perché ho riparato troppo in fretta. Allora, ti preoccupare. Allora, cosa ci racconti il profe? Niente di eccezionale, niente di così importante e di rilevante, dai. Ad Antonio sto dicendo la bassa della potenza, che mi sprattela su tutti i canali. Non è colpa mia, no. Guarda già, ti posso garantire che proprio Antonio potenza la tira in bassa. Massimo c'hai 10 watt, no Antonio? Sì, dai. Ti siete troppo vicino, la stessa cosa succede a me. La stessa cosa succede a me, soprattutto con Roberto. Quando magari mi sposto sul 20 o sul 30 a fare delle prove, non capisco una mazza. Eppure ti posso dire, questa radio è abbastanza selettiva, la vicinanza non venuta da là. Era giusto rivolgere battuta, no? Vabbè, su tutti i canali, no? Su un paio di canali sì, comunque, proprio... c'era proprio dentro, entra proprio dritto, capito? Su alcuni canali proprio si sente pulito. No, vabbè, era buffonete, no? No problem, dai. Intanto siamo sempre qua, tutti sul 10, ma non che ci spostiamo a fare qualche prova sul 30, sul 20, ma di solito siamo tutti qua, dai. Capitato l'altro giorno, stavo facendo le prove con Tino, c'era Massimiliano, Antonio, eravamo sul 30, c'era Roberto sul 10, mi entrava proprio di radio, capito? Quindi è un casino, vabbè. Si convive, avanti muscolo. C'è Nico, se la faccio vedere questo pesce che ha comprato la pellicola, se lo schiaccia delle sfere in gelatinose, poi tutte le inventano. Quella che pari, come si chiama? Quelle affari che si lanciano, si attaccano al muro. No, sono degli animali che però all'interno hanno queste palline gelatinose. Se lo schiacci e poi escono niente. Esce. Mamma mia che. Quanto ti diverti? Anche noi ci divertiamo. Con poco ci si diverte a volte. Avanti, Mister Bombo! Che ora c'è 8:30, 8:25. Alle 9 mi pare iniziare la partita, c'è il momento scrottone, vabbè. Ma io faccio un grande fratello, la vedi, secondo te, c'è un vinte di Marco, usiamo dove Maria De Filippi, non c'è posta per te, o c'è posta per te e non c'è posta per te. Cazzo, la domenica per Barbara D'Urso, l'uno per un grande fratello, e se vedi, si riesce a vedere la televisione di Santa Barbara. Oh, yeah. Scappa. Te volevo dire già, come ti pigli tu, ti pigli pure un attalino a me, non è che tu sei di meno, no? Vabbè, ma ti ripeto, giusto un paio di canali, non è questo grosso problema, dai. No, siamo due già, che tu non mi intendi, Nantaghisu, fregatene tu. Cioè, mi senti sopra quella persona? Non sono sicuro. Boh, vabbè, ma Natalino, sapevo che doveva, si doveva ricoverare, giusto? Non mi sa che l'ha già fatto. Ah, ok. Andave, andave. Avanti, signor Muscolo. Oh, il compleanno di Gigi, a me, Gigi Vulcano. Gli ho mandato gli auguri. Già, te ci vi rimando pure io, aspetta, devo trovare il camion prima che c'è il camion. No, non c'è il camion, c'è una foto alla grazia che si è avuto con degli amici, dai. No, io c'ho il camion qua. Ma Gigi Vulcano, Vulcano, c'è il camion, c'è il camion rosso che aveva lui. E vabbè, io c'ho un'altra cosa, sì sì. Adesso mi sto scrivendo anche un messaggio, ma non lo so se lo legge qua. Adesso glielo mandiamo a Gigetto. Ma io gli ho mandato via WhatsApp. Su WhatsApp, su WhatsApp. Aspetta, riesci a vedere su WhatsApp, no? Sì, hai ragione. C'è il cane su WhatsApp, mentre invece su Facebook ha un'altra foto. No, non ce l'ho io su Facebook, non ci sono, quindi ce l'ho io solo su WhatsApp, poi se lo mando un messaggio. Ripeti già. Ripetiti su Facebook, così ti cancella, no? Ti bloccano. Prima bloccava già blocco gli altri. Ti bloccano perché dice la verità, vai. Allora, e che soprattutto non ho fatto cazzate, ma te fate cazzate uno. Oh, Iulia, poveri noi. Persone deboli, deboli. Midolli, midolli. Persone deboli, deboli. Vabbè, Luca. Ciao a tutti. Perché sto scendendo così basso? No, lo sto sbagliando. Ora, va bene. Ora sì. Alla grande. Mi sono accorto che era in perdita. In perdita sì. Era in perdita la radio, non io. Ah, giornalista che era in perdita io. Attento, per il vela. Entra, dalla benedizione se ne va. Maiku. E che per il vela lui? Ah, io lo profe, parla che per il vela sta aggiustando il computer. Eia, quella pilandra di Massimiliano mi ha mandato un video su WhatsApp, ragazzi, per carità. Ma allora ti ho mandato, mi sono raccontato un giaffo, vende la bombetta. E sei accavanata. Dio, ho visto lei quel video, non te l'ho mandato a Massimiliano. Quale? Quello di quel ragazzo che simula lo scoppio della bombetta, a casa di cui un giaffo, la moglie è allucinante. Ah, sì, sì, l'ho visto. Poverina! Cazzo, poverina, ti manda la denuncia, si ha avuto un capo allo pesce. Ah, cazzo, ma è proprio un macco di gattena, eh. Non te l'ho mandato, Massimiliano? E già giù mi scioglia. Che ridere, ragazzi, tutti i grossi ne vengono, ragazzi. Solo le pomodare certe cose. Ma mi va rifatta da il suo programma, non mi sembra veritiero, eh. Boh, non lo so se è una cosa fatta bene o che cosa, sta fatto che... Boh. Ah, c'è lo Smith che sta impazzendo, ma troppo alto sono ti. No, no, va bene, adesso sono con la 4.50, eh. Io mi sono accorto se con 4.50. Andabex, andabex. Lui, mamma mia, come sto? Vabbè. Vabbè, dai, rimango in quel Rix che mi smonto due viti e devo fare delle fotografie, quindi è un lavoro un po' complicato. 4.50. Cosa? Ho detto, come è fatto il 4.50? Che non ce l'ho presente adesso. Ho scelto verticale, niente che me. Andava, dai. Tanto, sempre tutti uguali, sono, la stessa è quella, cambia colore e anche il contenuto, e quello è un semidigitale. Forse ho capito un po'. È bello, è bello, è bello. È bello, funzionante, è un po' più moderno del 440 e funziona bene. No, no, ma lui non deve smontare quella, deve aprire l'amplificatore, deve fare delle foto. Manda Merettino quelle foto dei condensatori a vedere se... cosa ne pensa quell'amico nostro. Dammi tempo che assumiamo, facciamo dall'altra parte, capito? rimango con Rix, dai, ti ascolto. E si conferma, vai un profe. Ehi, mo smontaggio ti, fare fotografie, documenta tutto e non perdere pezzi, mi raccomando. E mo mi dicevo l'amplificatore, avevo un muletto, se buca in mano. Del monitor ci vuoi? È un grande, quello è un amplificatore di quelli, diciamo vintage, ma un bellissimo amplificatore. Quello quando è uscito costava una barca di soldi, un 5 valvole, ma è bello massiccio. Oh yeah, tipo Fabrizio ci vuole la pistola ai gommisti. Allora Mimì, quella pilandra di Massimiliano mi ha mandato un altro video. Mamma mia, io te... Se mette il virus nel telefono, guai. Ehi, la gente voglio vedere pure io, mi sono trovato la carriera, avessi trovato in un fuscio. A colpi di barra a capo si sono pigliate. Mi ci vai già. No, lo sta caricando. No, la buona, a me me l'ha caricato un attimo, vabbè, è tutto un altro tipo di telefono. No, no, io lo sto guardando tramite il computer, e ci mette un po' a caricarlo. Ah, capo. E non hai un telefono. Asciugas, un capo è paccato, amico, ancora in terra. Siete già in vino, via. Oi, oi, Massimiliano, Massimiliano. Sta ancora in terra, Lido. Ancora in terra, ma tutto c'è ancora qua. C'è Sugar, un gambo è paccato. Ma questi sono pazzi, queste sono cose vere. Si ammazzano tra di loro. Chi si sono randaggi, insomma? Mamma? Sai cos'è, che cosa? Adesso a vedere. Mamma mia. A te, oggi la vedo nera lì, te qua, questo è un monumento, vedi, Mazzini, c'è, mamma mia. Partito è me, boh, ma non si ferma più. E mi va a vedere il cancello, già mi viene la memoria, sono già pieno. Ehi, nel mio venivo ancora, mica fa un bel robo, né? Ma venivo a pianarlo? No, è il mio, c'ho poca memoria tu. Non è un telefono di ultima generazione, questo era dell'azienda, me l'ha lasciato. Però volevo custodire bene, capito? La gente mi ha avuto un messaggio dello tecnico, vi dico già lì. Aspetta. Attenzione, dici, ecco. E avanti. Ciao, Tamburino. E buonasera Gianni, mi sono in compagnia di Gianni Lobrofetta e Claudio. Io se ti conosci, è una strana, non c'è nessuno. E a Seminoghi. Siamo qua Gianni, non ti preoccupare, noi siamo incogniti. Ci sono anch'io, sono arrivato Claudio. Buonasera a tutti. Sì, la sto guardando, Tiro, però c'è qualcosa che non mi convince qua. Sono al contrario questi. Sono al contrario, non ho capito perché sono solo. Ah, è al contrario la radio. No, cosa al contrario? Ma guarda il primo che ti ho mandato. Vabbè, dove si vede il numero, praticamente ho dovuto mettere il telefono dentro per. Ma non guardare le valvole. Sì, ma hanno mai capito. Allora, quelli che ho sostituito io, praticamente i piedini si saldano da sotto. Non ho capito perché questi sono saldati, l'hai modificato questa cosa. Mi falla vedere a chi sei tu. È molto strano. Vedi dove esce quelli che sono, non quelli appoggiati, quelli che sono per terra. Ok, quelli devono essere, e vedi dove escono i cavettini, quelli devono essere infilati lì dentro e messi perpendicolare, perché sono così? Vabbè, poco cambia, non è che non cose che funzionino, o quel cacchio in verticale poco cambia. Ma devono andare in quella posizione o no? Perché attenzione, i condensatori così hanno una posizione. Vedo un po' troppo di casino qua. Mandala a quella persona a vedere cosa ne pensa, se sono queste le posizioni, perché vedo qualcosa che non mi convince molto a me. No, no, diciamo che se tu noti quella cosa bianca, quella lì è una folla, per tenerli così, non niente di... Forse per comodità è stato messo così, però vabbè, vedo un altro. Io ho capito, per comodità, però si vede che è stato toccato, non sono così. Non ce ne va a colla. Come Sartore c'ha i suoi piedini, va saldato al circuito stampato, deve rimanere fermo saldato. Cosa vuol dire a colla? Oh, prova a mandarglielo a vedere cosa ne pensa. Ciao Gianni, buonasera, avanti. Acceso in questo momento e ho sentito a te a bombolo e a Tito, non so se ci sia qualche dato, mi pare già vendo un profeta se non sbaglio. Sono tutti cordialmente, a partigiani se ci si, Gianni, non rispondere per di più uomo. Io sono confuso, sto scrivendo un messaggio, sono qua. E io? Kappa, e si che mi giro. Kappa già. Mi era qua il profeta, no? Non so dove sia andato. Uia, e poi c'è il tabuccio. Sì, mi sono fatto la bella dormita, l'ho portato, mi sono svegliato alle 6:30, avevo una stanchezza arretrata, una briga, non capivo se era giorno o notte. Io mazzo romanzano e prendo sonno la notte. Io sto svuotando qua, ho riempito mi altre due cassette, altre due buste di roba davanti, porto tutto a Gianni, sarà già vedo, tanto tutta roba che a me non serve, sono altro paio, un po' di radio, microfoni, altre cose, ho impegnato un po' pure in campagna, qui non ho riposato niente, nulla di niente. Sì, vabbè, dai, dopo c'è la casa bella. Dammi il controllo. Tutto un asino, sì, c'ho la casa bella, perché questa non è bella, già c'entra. Mi sto occupando della roba, della radio, perché altrimenti poi mi viene male, ci vogliono giorni e giorni per mettere a posto tutta questa roba. No, io posso lasciarla così in mano ai traslocatori, no? Dopo ci occupavo dei mobili e dell'altra roba, questa me la sto occupando io. Quindi la camera sta svuotando. È già vuota, c'è il garage, c'è il UKF e basta, il resto è già tutto portato via, il vintage già tutti agli anni, adesso sto riempendo un altro po' di buste, di roba che le serve, tutto qua. Mi ha mandato la foto di è un mago. C'è un lineare vintage, mi pare che avevo mandato la foto, l'avevi fatto nuovo, funzionante, monovalvola, ma se devo dire nuovo, dal 71, tipo il BV131, però ancora più vecchio, nuovo l'ho fatto. Chi è che voleva il controllo? Franco, tu sì. Ma lo spieghi per caso? No, è una Meritron, cosa Speedy? Speedy, lo Speedy lineare, è una Meritron, altro che Speedy, sono lineari fatti bene, ma veramente bene, veramente, monovalvole, tipo il 131 però dell'altro, molto bello, l'ha tutto restaurato, l'ha fatto nuovo, non era messo male, però non era il colore originale, lo strumento non era originale, capito? L'avevo fatto nuovo, stiamo uscendo dalla fabbrica, non c'è niente da fare, non ce la passiamo in queste cose. Se vedi come ha fatto anche altre radio, ve li ho dato, è veramente molto bravo Gianni, molto bravo. Ma la verniciate? Verniciate? No, non vedo verniciare nulla, no? Messe le sue cose originali, capito? Messe Dio, ma non me ne accorgo, tu non te la cui, dice, questo è bello, però mi fa vedere, nota che un pomello non è originale, un commutatore non è originale, va lì nel suo garage e mette tutta la roba originale, cazzo, non c'è niente da fare. Perché c'hai il